Sí. Come un lampo e di questo me ne vanto, che appena ti volti io ti rubo tutto quanto. Perfetto, perché non ho un complesso, tu hai il complesso di non essere perfetto. Prendo fiato, prendo tempo, è quello che posso. Ai tempi di non cedo fottevi col tipo losco. La mia donna ha un cervello, a te fa paura. La tua donna ha un uccello da far paura. Si sa qua, la terra trema e le tue rime, beh, vanno in cancrena. E non devo dimostrare più niente a nessuno, e tu sei il primo che si è venduto il culo. Sei una vergogna per la tua strada, contro di me ti mando subito a casa. E non so stare più dietro le linee, ho preferito tirarle e sparare mine. E sputiamo qua una nuova traccia, si cede envy, una nuova minaccia. Lo sai qua, spacchiamo questo muro, parola d'ordine, rimane vaffanculo. E sputiamo qua una nuova traccia, si cede envy, una nuova minaccia. Lo sai qua, spacchiamo questo muro, parola d'ordine, rimane vaffanculo. Non parlo d'amore perché sono bastardo, l'amore è bastardo, qua ti frega tutto quanto. E non ti chiamo zio per rispetto, coglione, ma ti chiamo zio, non ricordo il tuo nome. Questa merda ti distrugge a poco a poco, altro che fuoco, la mia vita qua va rogo. Lo sfogo per te, questo è un gioco, e quando mi vedi ti sembro troppo loco. Vedi qua frassa, strappa e straccia, è il tuo flow, è una figuraccia. Mi incontri sai con uno scettro in mano, e nella strada con il cappello al contrario. Con questo stile sai, alzo le gonne, itch no è sitch che capisce le donne. In ogni traccia do il mio 100%, e nella tua lista rap io non entro. Soddisfatto di quel poco che ho, se quello che ho è un pizzico di pop. In poche parole c'è sitch sulla traccia, la base di envy, noi sfondiamo la cassa. E sputiamo qua una nuova traccia, si cede envy, una nuova minaccia. Lo sai qua, spacchiamo questo muro, parola d'ordine, rimane vaffanculo. E sputiamo qua una nuova traccia, si cede envy, una nuova minaccia. Lo sai qua, spacchiamo questo muro, parola d'ordine, rimane vaffanculo.